9 in punto, la versione di Oscar. Allora, buon 24 di novembre. Come vedete, i Doors sono sempre più appropriati, visto che ieri è stata un'asta di un Bund, un titolo decennale pubblico tedesco, ad andare per un terzo non coperta. E si tratta di un chiaro altro segnale di questa scivolosissima china in cui l'euroarea si è posta, rinviando i tempi di soluzioni adeguate all'altezza della scommessa che i mercati hanno tutti gli elementi per poter fare contro la tenuta dell'euro, per la divergenza delle economie reali al suo interno, per la divergenza delle finanze pubbliche al suo interno, perché i mercati dei beni e dei servizi sono separati mentre c'è una moneta unica, perché i debiti pubblici restano denominati sì in euro ma è come se fossero in valute estere rispetto all'euro della BCE, e perché questa costruzione è stata congegnata così fin dall'inizio. Non possiamo fingere, e la politica ha mentito fingendo di non saperlo sin dall'inizio, cioè è stato fin dall'inizio costruito in maniera da tenere separato il torchio monetario della banca centrale dai debiti pubblici fatti dalla politica, e in maniera tale che i politici e le classi dirigenti dovessero sapere che la separazione dei mercati sottostanti doveva indurre a fare tutta la produttività nell'economia reale necessaria a non far accrescere la simmetricità delle conseguenze di un unico tasso di interesse. Tutte regole che ci erano chiare all'ingresso nell'euro. Tutte conseguenze invece, per non aver rispettato le regole, negative, che scopriamo solo dopo aver preferito girarci dall'altra parte e dopo aver fatto un uso sconsiderato del dividendo dell'euro per l'Italia nella sola finanza pubblica: 7 punti di PIL ogni anno in meno di interessi del debito pubblico, dissipati in più spesa corrente invece che utilizzati per abbassare il prelievo, in equilibrio quindi rispetto al livello di spesa precedente e facendo più crescere l'economia. Ma come reagisce la Germania oggi a l'asta che lancia per la prima volta sui titoli del debito pubblico tedesco l'allarme, che è il titolo del Wall Street Journal di oggi? Suona l'allarme in Germania. Vediamo capirlo. La data ovviamente che fa riferimento è l'Euroconsiglio dell'8 di dicembre, e tutti iniziano a dire che o all'Euroconsiglio dell'8 di dicembre si adottano misure all'altezza del rischio oppure è troppo tardi. Ieri è stato il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, a ammonire che sarebbe difficile, o meglio impossibile, queste le sue parole, sostenere ulteriormente l'edificio dell'euroarea nel caso in cui il Consiglio europeo andasse storto. E un banchiere centrale europeo, di quelli che parlano poco, è quello austriaco che si chiama Ewald Nowotny, ieri ha parlato di un segnale d'allarme, dopo il quale non potrebbe più essere giusto attendersene chissà quanti altri. Come dire, per un banchiere centrale significa guardate che il tempo è finito. Allora, se andiamo a sfogliare un po' i giornali tedeschi su come viene presa la faccenda di ieri, l'interessante è vedere che inizia a manifestarsi qualche crepa nel coro di no tedeschi. Per esempio, sul Financial Times Deutschland c'è Norbert Bartl è il portavoce sulle questioni del bilancio del gruppo parlamentare CDU-CSU, qui della maggioranza, quello che a nome della maggioranza parla per i problemi del budget, e c'è questa sua dichiarazione che mi ha molto colpito, perché dice: noi non abbiamo mai detto mai, tutto quello che abbiamo detto è no agli eurobond alle attuali condizioni. Però la cosa interessante è che la dichiarazione del portavoce sulla materia finanziaria CDU-CSU sia quella di iniziare la sua dichiarazione dicendo: non abbiamo mai dire mai. Dopodiché continua il portavoce Norbert Butler affermando: se all'Euro Consiglio prossimo, l'8 e 9 dicembre, si adottassero reali sanzioni dure per il futuro in caso di mancata convergenza sulla finanza pubblica, noi potremmo contestualmente essere disponibili a trattare il punto degli Eurobond, dove per Eurobond oramai l'Eurobond è una sigla che si usa come sintesi di una delle tante diverse possibili strade per federalizzare almeno in parte i debiti pubblici dei paesi dell'euroarea. Dico tante perché ce ne sono tre nella proposta del libro verde presentato alla Commissione europea, altre se ne possono ancora trovare. A me sembra che una delle più realistiche sia quella della persistente responsabilità dei singoli paesi membri verso il proprio debito pubblico, quindi senza la creazione immediata di un debito pubblico comune, che sarebbe stravolgente rispetto ai trattati dello statuto, ma con un meccanismo per il quale vi sono quote eccedenti un certo limite, quindi diverse da paese a paese dell'euroarea, che vengono garantite a breve come muro dal BCE sui mercati, ma nel medio-lungo, e quindi come solvibilità vera, da un meccanismo di corresponsabilizzazione rispetto al quale però c'è sempre l'impegno del paese emittente di dover poi corrispondere in parte a questo sostegno comune. Però oramai per attraverso la sigla Eurobond si mette insieme una qualunque, la migliore, di queste possibili soluzioni. E come vedete iniziano quindi le prime modestissime, timide aperture tedesche che fanno intendere quindi che Angela Merkel con i suoi no è costretta a considerare la flessibilità pur di evitare altrimenti quello che il banchiere centrale austriaco ci dice essere un allarme dopo il quale non ce ne saranno degli altri. Sulla Frankfurter Allgemeine invece Gerald Braunberger scrive che tutto sommato quello che è avvenuto ieri, leggo testualmente, l'inaspettata bassa domanda sul bond dei 10 anni non è una ragione di panico, ma certo è un chiaro segnale ai mercati. Il chiaro segnale è quello che persino un paese considerato come un paradiso abbastanza salvo nella crisi non può credere di consentirsi qualunque cosa. E di questi tempi un rendimento del 2% non è qualche cosa che debba gettare la Germania nel terrore, però attenzione, perché anche la Germania ha bisogno di una politica di consolidamento. Tutto sommato, nell'analisi di Braunberger sulla FAZ, i tedeschi certo non trovano un motivo di grande allarme. Sullo Spiegel invece, nella sua column sullo Spiegel online, Wolfgang Munchau dice che è probabilmente troppo tardi per risolvere la crisi, quindi qui entriamo in un europessimismo molto più pronunciato. E uno dei motivi di fondo che trovate nella com sullo Spiegel online di Wolfgang Munchau è quella che lui chiama l'inflation, la menzogna sull'inflazione, e cioè l'argomento per il quale sia stata l'esperienza storica di Weimar a muovere la Germania verso questo modello in cui la virtù dei politici a livello nazionale deve essere il cardine per rimanere tutti nell'euro, perché altrimenti se si mente sul virtù del fine del rigore della finanza pubblica da una parte e sulla produttività che bisogna incentivare, poi le cose vanno per aria. La lettura per cui sia stata l'inflazione di Weimar a ancorare nella mentalità tedesca, nell'ortodossia della Bundesbank, da cui modello abbiamo tratto poi l'euroarea, ecco, questa, dice Wolfgang Munchau, è una menzogna, perché la verità vera è che Weimar fu travolta non dall'inflazione, ma fu travolta dalla deflazione, dalla depressione, dall'enorme esplosione della disoccupazione, e dice Wolfgang Munchau, ci siamo messi nella condizione di fare il bis invece esattamente della stessa cosa. Ed è un dibattito che sui giornali tedeschi inizia veramente a fiorire, c'è anche un articolo di Mark Schiritz su questo, apposta su Hitler e l'inflazione. Invece, sempre in un'intervista sul Frankfurter Allgemeine, Henry Kissinger dice di essere comunque convinto che l'Europa ce la potrà fare. La crisi politica continua intanto anche in Belgio, che abbiamo visto da ieri è considerato il vero metro dell'euro tenuta, che non c'è perché è praticamente allineato nei suoi rendimenti alla Francia, e salgono. E da questo punto di vista direi che il quadro della giornata è un quadro di quelli a mio giudizio molto preoccupante. Sentiamo nel giudizio del professor Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi e più volte ospita Radio 24, come su tutti i media della radio televisione, nel suo giudizio una prima risposta a che cosa si attende realisticamente dal vertice europeo di inizio di dicembre, per come è riuscito a valutare alcuni di questi aspetti che noi richiamiamo nella lettura ogni giorno della presa di consapevolezza tedesca, quindi se si aspetta una delle vie di federalizzazione dell'eurodebito, e secondo invece, al di là di quello che si aspetta ragionevolmente, anche quale sarebbe il suo giudizio in realtà su che cosa sarebbe la soluzione migliore, tenuto conto di questa divergenza che oramai è scatenata sulla tenuta dei diversi paesi dell'euroarea. Buongiorno professore, grazie intanto. Buongiorno. Intanto secondo me non bisogna drammatizzare quello che è successo ieri in Germania, perché sul lato corto dell'emissione i tassi di rendimento tedeschi sono andati addirittura negativi, cioè la gente è disposta a pagare pur di tenere titoli a breve tedeschi. Quelli a lunga, l'asta lunga è andata male, non è la prima peraltro, ci sono state altre in passato, non così male, ma altre sono andate male. E un altro motivo per cui quella lunga è andata male probabilmente è che i rendimenti sono molto bassi, perché prima tutti avevano comprato bonds tedeschi perché non si fidavano più degli altri paesi. Quindi secondo me non bisogna drammatizzare l'esito dell'asta di ieri. Su cosa è realistico attendersi, su cosa sarebbe ottimale fare in futuro, io ho l'impressione che ormai non sia più neanche questione di fondo salva stati o eurobond. Gli eurobond sono politicamente infattibili, perché per avere effetti bisognerebbe rimetterne, ormai c'è di mezzo anche la Francia, bisogna salvare Italia, Spagna e Francia, almeno 2.000 miliardi. E la Germania non potrà mai farne, nessun cancelliere tedesco può andare dal suo paese e dire dobbiamo prenderci, addossarci il rischio di un'emissione di 2.000 miliardi. Ricordiamo che la garanzia per gli eurobonds è in comune, cioè se potrebbe finire tutte sulle spalle della Germania, non è pro quota, la Germania non ha una garanzia specifica per la sua quota, diciamo, nel PIL europeo, può essere chiamata a garantire tutte le emissioni di eurobonds. Quindi l'eurobond, come ha anche detto ieri la Merkel, nella proposta della Commissione, ha detto che era straordinariamente inappropriata, ha usato delle parole fortissime. Gli eurobond secondo me non succederanno mai, se succederanno sarà una cosa di facciata. Io ho l'impressione che al punto in cui siamo arrivati la questione è una sola: o la banca centrale è disposta a fare quello che ha fatto la Fed, ancora più della Fed, cioè praticamente a dire sono disposta a comprare quantità illimitate di debito pubblico dei paesi a rischio, quindi mette un pavimento al rendimento un tetto al pavimento di questi rendimenti, oppure non vedo altra soluzione. Però questo ha dei costi, perché in Italia c'è questa idea che questa intervento della banca centrale, che compra tutto il debito necessario, è un intervento senza costi e senza rischi, è un intervento con enormi costi e enormi rischi, soltanto che ancora una volta i costi e i rischi sono sulle spalle della Germania, questo lo renderà molto difficile. Professore, c'è chi fa notare che appunto la tendenza che lei giustamente ha richiamato all'inizio, persistente, del essere disposti anche praticamente a rendimenti nulli pur di avere titoli tedeschi a breve, al di là di quelli a lunghi, è la tendenza grazie alla quale la Bundesbank è diventata il primo creditore dell'euroarea, con quasi 700 miliardi di asset, effetto della corsa agli acquisti del Bund come rifugio e garanzia. La domanda che ci viene anche da alcuni ascoltatori da quando abbiamo richiamato questo particolare nei giorni precedenti è: ma una quota significativa, molto significativa di questa montagna di denaro, espressione del Bund come bene rifugio, non potrebbe essere per esempio richiesta in una prospettiva di federalizzazione alla Germania come una parte di garanzia aggiuntiva che giustifichi il fatto che poi siano soprattutto soldi chiesti ai tedeschi, per esempio, per qualunque intervento di federalizzazione del debito si voglia immaginare? Non ho capito, il fatto che siano i primi creditori dell'Eurare la Bundesbank, cioè il fatto che abbiano incassato un mucchio di soldi per effetto della corsa a prendere bond, non è una buona prova del fatto che dovrebbero asimmetricamente assumersi garanzie maggiori per la soluzione? Non lo so, non è facile, però secondo me noi abbiamo, ed è comprensibile, la tendenza a, ovviamente, a metterci nei nostri panni e non capire i panni tedeschi, cioè mettiamoci nei panni di un politico tedesco, in questo momento la Merkel, ma potrebbe essere chiunque, a cui viene chiesto, perché questo è quello che viene chiesto, di emettere garanzie oppure di comprare debito, sono forme diverse, ma nella sostanza in un certo esito gli effetti sono gli stessi, per 2.000 miliardi per salvare l'Italia, la Spagna e la Francia, in alcuni casi per tirarli fuori dal mercato per 3 anni con il fondo salva Stati, in alcuni casi proprio per mettere un tetto al rendimento massimo nel caso di intervento della BCE. Prendiamo il caso della BCE, la BCE investe 2.000 miliardi, ha sul suo bilancio 2.000 miliardi questi titoli, l'Italia poi ritorna un governo poco credibile, tra 6 mesi e fa default e la BCE perde il 50% del suo investimento e va in bancarotta tecnicamente. La BCE non può andare veramente in bancarotta, una banca centrale non può andare in bancarotta, ma che cosa succede? Se si ricapitalizza la deve ricapitalizzare la Germania, non certo l'Italia, perché l'Italia è appena andata in bancarotta. Se non si ricapitalizza la Germania perde tutto il flusso di futuro signoraggio che avrebbe avuto se la banca centrale fosse stata in buone condizioni. In ogni caso il costo è sulle spalle della Germania e il costo può essere elevato. Alla fine, come nel caso della Fed, dell'intervento della Fed negli ultimi 2 anni, magari la banca centrale si guadagna perché la Fed ci ha guadagnato. Però il rischio lo sappiamo adesso. Esatto, sì. E infatti il professor Guido Tabellini oggi nel suo editoriale sul Sole 24 Ore è di quelli insomma che tendono a essere abbastanza pessimisti e scrive: le istituzioni monetarie dei paesi avanzati sono il frutto di una lenta e graduale evoluzione di processi di prova ed errore in seguito ad eventi quali la grande recessione degli anni 30, gli shock inflazionistici degli anni 70. I padri fondatori dell'euro sono stati troppo ambiziosi, scrive Tabellini, e si hanno disegnato al tavolino un sistema particolarmente innovativo e poi però lo hanno blindato in un trattato internazionale. Ora stiamo scoprendo che nelle circostanze estreme scatenate dalla crisi finanziaria dal 2008 in avanti il sistema non riesce più a funzionare. È giunto il momento di ammetterlo, dichiarando apertamente che il trattato va rivisto. Però, professore, l'ultima domanda che le pongo, anche dire il trattato va rivisto ha dei tempi tali che appaiono difficilmente compatibili con una soluzione efficace per stoppare l'ondata del selling in corso, o no? Sì, ha dei tempi lunghi e soprattutto non è facile sapere su quali punti devono essere tutti d'accordo per rivedere i trattati, quindi se la revisione del trattato consiste nel rimuovere la famosa no bailout clause, cioè la clausola che dice che la BCE di fatto non può aiutare i governi in difficoltà comprando i titoli, perché è questo di cui si sta parlando. Il problema è che molto probabilmente la Germania non è d'accordo, quindi non solo bisogna cambiare i trattati, che prende tempo, ma bisogna essere anche d'accordo su come cambiare. Questa è la parte più difficile. Credo che un politico tedesco non possa permettersi di dire al suo paese: noi compriamo 2.000 miliardi di titoli di altri paesi su cui magari ci guadagneremo, magari però ci possiamo perdere tantissimi soldi. E io condivido l'analisi rigorosa del professor Perotti. Dobbiamo, invece che additare la colpa altrui, la renitenza tedesca, per così dire, oggi colpevole, come molti quando vanno nei guai dicono e ripetono, dobbiamo evitare di non capire le ragioni del perché i tedeschi sono renitenti, perché il costo è loro, e se noi fossimo nei loro panni noi ragioneremmo con ogni probabilità, ad eccezione di alcuni euro federalisti, ragioneremmo come loro. Le eccezioni ci sono, per esempio Schmidt alla cerimonia del saluto finale della presidenza di Jean-Claude Trichet alla BCE ha pronunciato un discorso molto bello, molto secco, sono 4 cartelline nel quale tutti i passaggi nei quali affermava e ripeteva che in queste circostanze il cammino europeo percorso dal 1950 ad oggi impone che siano i paesi più forti ad aiutare i più deboli, perché altrimenti si compromette tutto o buona parte del percorso comune, erano sottolineati in grassetto. Però di leader tedeschi a pensarla come Schmidt non ce ne sono molti, perché perché il patto contratto con l'elettorato tedesco da anni e in questi ultimi anni è stato preciso, ed è stato quello: la Germania ha fatto abbastanza per sé, ha fatto abbastanza per gli altri, ora c'è un limite che è stato toccato grazie al professor Perotti. Ma questo spiega anche perché questa questione, per esempio, è quella su cui un'inedita apertura di un giornale italiano che oggi dà il titolo d'apertura, lo scrive in tedesco, è il Foglio di Giuliano Ferrara, che come sapete polemicamente chiede da tempo che la BCE diventi prestatore di ultima istanza, e il titolo del Foglio è Die neue Gestalt Deutscher Macht, cioè la governance intesa come nuove forme del potere tedesco. Ed eccoci tornati qua in studio, e se ho concluso indicando il mio consenso per il rigore con cui il professor Roberto Perotti ci invita a comprendere le ragioni dei tedeschi, perché i tedeschi non ci hanno messo di fronte a delle novità, i tedeschi hanno disegnato insieme a noi, che le abbiamo condivise, i pilastri di questo sistema dell'euro fondato sulla sfiducia verso le menzogne e i ritardi della politica, e per questo ha tenuto ben separate le responsabilità del debito pubblico rispetto a quel del torchio monetario della banca centrale. E invece ora noi, avendo ignorato questa regola fondamentale dell'euro, pretendiamo che siano loro ad assumersi i costi del salvataggio della garanzia illimitata data dalla BCE e poi anche di qualche meccanismo di federalizzazione dei debiti pubblici. Come viene giudicato in realtà in Italia questo atteggiamento dei tedeschi nella maggior parte dell'informazione che poi propone la sua lettura, le sue opinioni all'opinione pubblica italiana? Io metto insieme due tendenze e trago dai giornali di oggi. Il Giornale, quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, titola Chi ci vuole poveri? Le manovre anti-italiane, quindi si soffia sul fuoco del nazionalismo italiano, e la spiegazione di questo titolo, Chi ci vuole poveri, è questa: noi soffriamo per la crisi, ma la Germania ci guadagna più di 50 miliardi di euro l'anno, la Merkel ha tirato troppo la corda, fiasco storico per l'asta dei bot tedeschi. Ma è evidente qual è il criterio: il criterio è dire sono i tedeschi che ci vogliono poveri. Voi potreste dire questo è un commento ispirato a, diciamo, la nostra di Berlusconi, e a rimarcare che con Monti siamo ancora più deboli nella difesa nei confronti dei tedeschi. Però se prendete Repubblica e leggete l'editoriale che comincia in prima pagina, firmato da Barbara Spinelli, La deriva tedesca, della realtà i toni sono del tutto analoghi. Ve ne leggo un passaggio: è con armi puramente ideologiche che il governo tedesco, pur dominando un'Europa a cui non vuole rinunciare, pur denunciando le forze centrifughe che la minacciano, sta in realtà, il governo tedesco, sta in realtà contribuendo di fatto a renderla imbelle, ad accentuarne il disfacimento. Tutto quello che potrebbe salvare la zona euro, la messa in comune del debito, gli eurobond reclamati da Barroso e Monti, i poteri maggiori dati alla Commissione, la trasformazione della Banca Centrale di Francoforte in un organo che garantisca gli stati in difficoltà e pur disciplinando gli aiuti al crescere come la Federal Reserve in America, a tutto questo Berlino sta ponendo ostacoli. Sono progetti che guarda con sospetto, come se davanti a sé vedesse un eretico che urla sguardo. E la sostanza, come vedete, del giudizio è la stessa. E tuttavia, perdonate, se vogliamo immaginare qual è il meccanismo di fondo, cioè il fatto che se i paesi non avessero rispettato le regole dell'euro, alla fine sarebbe stata la crisi il conto da pagare, a doverli rieducare, ecco, questo meccanismo è molto simile a un passaggio di un film che ci è venuto in mente ieri grazie a un ascoltatore, Rocco, che io ringrazio, e il film era Altrimenti ci arrabbiamo, e della filosofia educativa di come attraverso la punizione, le sanzioni e la minaccia delle sanzioni si svolga un effetto educativo migliore che con i confetti. Ricordiamo: io scommettere tu pensa di accontentare loro, naturalmente. Nein, nein, nein. Sarebbe grave errore psicologico. Nein, prego. Loro essere soltanto dei bambini, essere individui poco cresciuti, loro vedono in te il loro genitore. E se tu essere loro genitore, rivogliono piccolo giocattolo da te. E loro buono papà ridare piccolo giocattolo ai suoi bambini. Nein, nein, nein! Tu devi essere padre severo! Devi sculacciare, sculacciare, sculacciare forte! Solo così tu avrai bambini obbedienti. Allora, ovviamente c'è un eccesso di ironia e di caricatura nel modello del 999 e della autorevolezza autoritaria con cui si ottengono effetti migliori che con le pillole. Ma quante volte, con le pillole, con le caramelle, scusatemi, ma quante volte la storia ha dimostrato che senza essere rigorosi nelle sanzioni, alla fine la politica inevitabilmente è più di corto periodo nelle sue scelte di ciclo elettorale della spesa, di quanto non accusi i mercati, l'accusa classica ai mercati è dello short term, di avere solo in mente i risultati delle trimestrali, ma la politica è tale e quale nella maniera in cui amministra la spesa pubblica. Io sono dell'idea che noi dovremmo, ripeto, mettere un orologio del debito pubblico sopra i palazzi pubblici, perché la gente giudichi da quello i governi, e noi ce l'abbiamo solo sul nostro Chicago blog. Ma perché oggi additiamo i tedeschi di essere incomprensibili? E questo 999 lo becchiamo semplicemente come se fossero, dice la Spinelli o dice il giornale, due visioni contrapposte ma in realtà convergenti, come se fossero loro gli indifferenti, freddi, inabissatori dell'Europa. Cerchiamo di capirlo con uno dei nostri consueti e ricorrenti interpreti dello spirito tedesco, Tobias Spiller, che è inviato in Italia della Frankfurt Allgemeine, e gli chiedo innanzitutto di, sinceramente, come sente in questi ultimi giorni, al crescere di questa intolleranza nei confronti della posizione tedesca, come si sente in Italia, visto che poi tanti anni che sta qui insieme a noi, quindi conosce i nostri difetti, le nostre qualità, ma avverte che c'è qualche cosa che si sta spaccando profondamente nella maniera in cui noi avvertiamo la politica tedesca, oppure pensa che sia comunque una cosa fisiologica, ci sono già stati passaggi simili nella storia, poi alla fine si troverà un compromesso l'8-9 dicembre e quindi è in utile essere troppo preoccupanti. Come la pensa Tobias Spiller? Innanzitutto grazie, buongiorno. Buongiorno, va bene, da un lato è veramente grandioso arrivare sulla trasmissione proprio dopo la caricatura, no? Questo è un punto. L'altro è che non voglio drammatizzare niente e non vedo che adesso per la strada si vede la incrinatura tra la Germania e l'Italia e cose del genere. Abbiamo avuto discussioni e divergenze anche in passato, proprio anche sulla politica monetaria. Sono stato in Italia da un po' di anni, così mi sono fatto anche molti anni di retorica pro euro, pro ammissione dell'Italia all'Unione Monetaria, che diceva anche su quanto sarà brava l'Italia e quanto è ingiustificato che i tedeschi abbiano il minimo dubbio all'Italia, e adesso così lo vedo in modo abbastanza rilassato. Ma non vorrei sottovalutare un po' di divergenze comunque nella valutazione della situazione attuale. I tedeschi da un lato hanno un atteggiamento diverso a valutare costi e sostenibilità. Così in Italia ci sono politici che vogliono un tampone subito, adesso Banca Centrale deve comprare titoli, mettiamo insieme tutto il debito, qualsiasi cosa che tampona la situazione oggi. In Germania proprio in queste situazioni monetarie, ma non solo, anche per quel che riguarda l'ambiente, anche per quel che riguarda anche le pensioni, guardate, i Verdi sono quelli che vogliono più giustizia nelle pensioni tra le generazioni, perché c'è per la parola la sostenibilità, e così non si può fare una cosa oggi che costa molto domani, e lì c'è una divergenza di valutazione di tutte queste misure. Altro punto è il trattato. Se si fa dei trattati ci sono tutti su un tavolo e poi si fa un compromesso, certamente bisogna forse anche dopo rispettare queste ragioni degli altri. E quelli al momento non li vedo rispettati per niente, quelle ragioni che hanno portato i tedeschi. Hanno portato la moneta a Marco, hanno portato il loro sistema di gestire la moneta, e certamente hanno detto per noi deve essere così, che l'euro deve essere forte come il Marco, altrimenti che serve sacrificare il Marco per qualcosa che è molto peggio? Certamente non volevano scambiare il Marco contro la lira degli anni 70. Se adesso arriva l'italiano e dice facciamo una moneta diversa che deve essere e deve funzionare come la lira anni 70, certamente non solo il tedesco si inorridisce, ma anche dice: ma che senso ha fare dei trattati con questi italiani, con tanti altri? Perché in quel caso certamente la Germania ha sacrificato il marco, l'Italia ha fatto un sacco di promesse che non sono state mantenute, adesso l'Italia dice: adesso dateci tutto, e così, e le vostre ragioni non le rispettiamo più. E questo mi sembra un po' tosto. In altre parole, è la Germania che ha portato il più del goodwill dell'avviamento dell'euro, e quindi è legittimamente preoccupata del fatto che il patto, come è stato scritto, non viene rispettato, e non si capisce perché a questo punto. Però concretamente, a che cosa può arrivare secondo te all'Euroconsiglio prossimo la posizione tedesca? Mi ha colpito che per esempio sullo Spiegel, sul Die Zeit, il premier finlandese Jutta Urpilainen, la Finlandia è uno dei paesi dell'euroarea che è sempre stata più stretta, ha condiviso di più la posizione dei tedeschi, compresi i no, per così dire. Il premier finlandese Jutta Urpilainen ribadisce che di aver sempre condiviso la posizione tedesca, di continuare a difendere l'assoluta indipendenza della Banca Centrale Europea, che è una maniera, diciamo, gentile per dire che non deve garantire illimitatamente con acquisti i titoli del debito pubblico dei paesi dell'euroarea che sono a rischio. Però aggiunge il premier finlandese: ma se tutto il resto dovesse fallire, noi dobbiamo riflettere sia sul ruolo più ampio e diverso rispetto a quello che oggi abbiamo difeso della Banca Centrale Europea, sia su un ruolo più ampio di intervento immediato del fondo monetario. Allora, l'apertura finlandese la utilizzo per capire, questi primi segnali, ho richiamato anche le parole del portavoce del gruppo parlamentare della CDU-CSU che ho trovato sulla stampa germanica questa mattina, lasciano preludere che all'Euroconsiglio la posizione tedesca si possa allentare, e se sì, su quale punto preciso secondo te, per come possibile convergenza di risposta anche a ciò che è avvenuto ieri con l'asta sul Bund? Non vedo grande disponibilità a mollare, proprio si vede invece che le linee si sono irrigidite, così la Germania ha detto no all'Eurobond, e l'unica cosa che vorrebbero è un scenario più credibile sul controllo della stabilità delle finanze dei singoli stati. Lì tutti hanno detto all'inizio dell'euro ci comporteremo tutti in modo responsabile, poi tutti, inclusi i tedeschi, al momento critico hanno detto: ma non ci faremo del male, e hanno allentato questi criteri. In quel senso la Germania proporrà un qualcosa, e questo sarà il controbilanciato da altri che vorrebbero delle misure tamponi subito. Si potrebbe cercare di vedere tutto in modo positivo, perché sempre solo nuove notizie di problemi, ma vediamolo così, che al momento si sta comprando tempo in qualche modo, e bisogna adesso mettere a posto i problemi strutturali, bisogna trovare così in quei pochi giorni le misure per la crescita dell'Italia, a quel punto potrebbe anche rientrare il problema. Ricordiamoci bene, quando a un certo punto l'Italia aveva convinto negli anni 90 i mercati che l'Italia comunque sarà sostenibile e entrerà nell'euro, a quel punto c'era non più la corsa fuori dall'Italia, ma la corsa per avere gli ultimi titoli italiani con alto rendimento, quelli di 10-12%, ricordiamoci, e quelli hanno creato un sacco di guadagno per chi ha preso questi ultimi titoli, perché poi il livello dei tassi di interesse è sceso e tutte le questioni sono rientrate. Allora, in quel senso, bisogna utilizzare il tempo non per litigare su misure tampone, ma per da un lato trovare qualcosa di credibile per il futuro, e dall'altro fare le riforme necessarie. Bene, e su questa nota che ci invita a considerare la positività, ed è la prima in effetti in questa trasmissione di Tobias Piller, io lo ringrazio per essere stati con noi e credo che lo richiameremo ancora più e più volte, perché mi sento un po' isolato ma necessario nella funzione che sto tentando di svolgere per indurre tutti voi che ci ascoltate a riflettere sul fatto che no, i tedeschi non sono affatto degli irresponsabili come il più dell'informazione italiana per compiacervi e per pensare di portarsi a casa un pezzo di attenzione della vostra paura, una coppia in più, un ascolto, tende a dipingerceli in questa fase. Io invito tutti a essere più freddi e a considerare che nei rapporti con chiunque altro abbia con voi un'obbligazione, un negozio giuridico, voi siete, ciascuno di voi in ascolto, siete dei rigorosi e inflessibili guardiani dei vostri diritti e del fatto che un patto sottoscritto con ciascuno di voi venga rispettato e adempiuto in tutte le sue clausole. Ecco, dovete pensare che tra paesi è esattamente la stessa cosa, e se gli inadempienti siamo noi, attenti che il nostro debito pubblico dice quello, la nostra bassa crescita dice quello, le nostre alte spese e altre tasse dicono questo, quindi che abbiamo pochi margini per renderci ulteriormente rigorosi con altre stangate fiscali che puntualmente invece arriveranno ancora una volta. Ecco, tutto quello dice che noi siamo inadempienti, e allora perché dovreste immaginare che se ci fosse un adempiente nei confronti di un patto privato con voi, voi lo condannereste, lo giudichereste severamente, e perché non dovreste aspettarvi che la stessa cosa vale nei confronti dell'Italia che si comporta esattamente come si comporta qualcuno che ha con voi un patto che non ha riconosciuto? Forse è bene capire che bisogna che noi stessi applichiamo a noi stessi ciò che siamo pronti ad applicare sempre agli altri, e non a dire che noi possiamo e gli altri no. Questa è la sintesi del problema. This is the end, beautiful friend. Vediamo un po' come la pensano i nostri ascoltatori su questo This is the end, beautiful friends, con cui cominciamo da qualche settimana a questa parte, non perché vogliamo essere dei depressivi, distruttivi, ma perché vogliamo fotografare le cose come stanno. Come scrive oggi in un editoriale sulla Stampa Stefano Lepri, singolare leggere nello stesso articolo 127 del Trattato Europeo, da una parte la clausola che viene invocata dai rigoristi, quella del no bailout, cioè nessun salvataggio di chi diverge a spese di chi è virtuoso, e dall'altra parte affidare poi alla BCE il compito di tutelare la stabilità dell'intera euroarea, perché se dovessimo prendere la seconda esigenza oggi preminente, allora dovremmo a quel punto dire che è lo stesso articolo 127 a chiedere alla BCE di fare il garante d'ultima istanza in termini illimitati sul mercato. Vediamo come la pensate alcuni di voi. Cominciamo con Massimo da Bologna. Prego Massimo. Buongiorno, sono Giannino, reputando uno dei più esperti. Io vorrei fare una domanda. Io premetto, cioè, io sono molto preoccupato della situazione. Però io dico, questa Europa che è nata solo su questa moneta unica, cioè praticamente non è uno Stato federale come gli Stati Uniti, io non capisco perché sia stato preso dentro purtroppo di tutto, tanti paesi, e io dico purtroppo anche l'Italia, con un debito pubblico come c'ha, altissimo, e in più una classe politica inaffidabile, perché non diamo la colpa solo a Berlusconi, c'è anche la sinistra che quando ha fatto scendere e crollare Prodi, che probabilmente un qualcosina di più stabile avrebbe dato a livello economico per l'Italia, forse. Quindi la responsabilità è di tanti. Cioè, noi siamo un paese che adesso abbiamo un nuovo governo, una persona e probabilmente con tutto uno staff tecnico dietro molto esperto, però ricordiamoci che ci sono poi politici che devono consentire queste manovre che farà Monti. Allora, lei mi pare di capire, Massimo, che lei dice in realtà hanno ragione gli altri a non essere troppo fiduciosi nei confronti dell'Italia, e io devo dire che la penso come lei. A dire oggi queste cose passi per antinazionale, questo è il punto, perché l'appello, pensate ai BTP Day che le banche preparano per i prossimi giorni, dicendo a voi italiani di sottoscriverli, ma come, se ne devono liberare loro dei bilanci delle banche perché sono troppo rischiosi, e sono meno rischiosi se li avete voi in tasca? Scusate, io non voglio sembrare antibancario, perché difendo il sistema bancario italiano, difendo il fatto che noi dobbiamo restare solidi e concreti, ma non posso dire io in privato ai risparmiatori a cui do consigli, no, è troppo rischioso perché se lo devi rivendere per far cassa sul mercato secondario, ci rimetti sul nominale e poi fare gli appelli patriottici. Quindi sì, condivido l'opinione dell'ascoltatore che dice che siamo un po' troppo pochi affidabili, secondo me. Graziella da Padova, come la pensa? Sì, buongiorno, io sono un po' la voce fuori del coro. Al di là dell'insipienza dei nostri politici, perché non hanno mai pensato a ridurre il debito pubblico in tutti questi anni, hanno sempre sprecato e buttato via soldi. Sì. Però io sono, devo dire, assolutamente indignata, perché in questa fase in cui la Germania dà lezioni a tutti, nessuno, professori, studiosi, giornalisti, politici, nessuno ricorda mai cosa ha combinato la Germania negli anni 30-40, quando ha distrutto l'Europa in termini di vite umane con crudeltà impensabili e in termini proprio di distruzione di beni per la mania, per la loro voglia. Graziella, ma per carità, allora nessuno glielo ricorda mai. Ma come nessuno glielo ricorda mai? Ma glielo possiamo ricordare noi italiani? Il fascismo è nato qua, Graziella, non vorrei dire, ma che l'hanno inventato loro il fascismo? E chi è andato al potere in Italia nell'ottobre 1922? Loro. Il nazismo è stato più spietato, più duro, la Shoah, milioni di vittime, però il fascismo non è che ci metta in condizione di salire in cattedra. A obiezione seria e tagliente, una risposta da parte mia seria e tagliente. Gianluigi da Modena, deve essere brevissimo. Buongiorno Giannino. Sì. Allora, io ho letto qualche tempo fa su un giornale economico, comunque non ne ho più sentito parlare, era la proposta di fare una ipoteca generale su tutti gli immobili e realizzare, diciamo, denaro, diciamo, stampare. Sì, è l'ipotesi Monorchio, ne parleremo purtroppo un'altra volta. Giuro che ci torniamo, Gianluigi, perché adesso dobbiamo chiudere con l'appuntamento generale, l'appuntamento a domani.